Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Radio Next. Viaggio nel nuovo contesto digitale. Di Pepe Moder. Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Radio Next. Oggi parleremo di leadership digitale, un tema a me particolarmente caldo e caro, proprio perché sapete la mia idiosincrasia verso la stragrande maggioranza, ahimè, di tanti manager, di tanti professionisti che stanno lontani dal digitale, lo demandano ma in realtà non lo vogliono affrontare. Lo facciamo con in studio Fabio Rizzotto, che è responsabile consulente a ricerche di IDC Italia, a cui do il benvenuto. Buongiorno Fabio. Buongiorno a te Pepe, buongiorno agli ascoltatori. E lo facciamo in collegamento da remoto con Fabrizio Moneta, responsabile vendite e soluzioni tecnologiche di SAP Italia. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno, grazie dell'invito. E Andrea Belardinelli, direttore settore sanità digitale e innovazione Regione Toscana. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora Fabio, voi avete condotto una ricerca la scorsa estate con circa 400 leader digitali. Intanto cerchiamo di capire un attimino chi è il leader digitale e che cosa fa. Dunque, abbiamo scelto un po' questa terminologia leader digitale per comunque identificare sostanzialmente chi è coinvolto all'interno delle aziende di media, grande dimensione, coinvolto nei processi di innovazione. Quindi fondamentalmente stiamo parlando di manager coinvolti nei processi decisionali, nella scelta, nel disegno delle strategie e anche in qualche modo nei percorsi attuativi. Quindi è una persona che, non dico che necessariamente stia nel board, ma che è una persona che possa fare dei cambiamenti rilevanti, quantomeno di una certa entità, è corretto? Può far parte del board oppure in qualche modo lo influenza o si rapporta sicuramente okay, col top manager. Benissimo. Ci racconti un attimino che cosa emerge per quanto riguarda i leader, la figura del leader dalla ricerca? Sì, innanzitutto è utile considerare che il leader non è identificabile in una specifica funzione, ma l'innovazione digitale oggi conduce, porta tutti i manager funzionali a lavorare a stretto contatto, peraltro, non solo nelle singole funzioni. Quindi scusami, mi stai dicendo che non necessariamente è qualcuno che vada a comprare sul mercato, ma potrebbe essere anche qualcuno all'interno dell'azienda che si occupa di fare, si prende la responsabilità di fare questo grosso cambiamento. Assolutamente, noi abbiamo a che fare oggi con leader che hanno sicuramente un carattere funzionale, ma esistono nuovi ruoli che si sono affermati in questi ultimi anni, che sono ruoli fondamentalmente trasversali, che si occupano di trasformazione, di innovazione, di digital innovation, non trovano necessariamente una specifica collocazione dentro l'organigramma, ma sono figure sempre più coinvolte. Altri outcome che emergono da questa, come dire, da questa analisi della leadership, chi è il leader, ma quali sono le caratteristiche che deve avere questo leader? Abbiamo cercato di osservare varie sfaccettature, dal momento che la definizione di leadership è sicuramente complessa. Abbiamo cercato di guardare sicuramente la propensione all'innovazione e alla visione, la capacità ovviamente anche di identificare le giuste competenze interne e all'esterno, la capacità di creare anche una sintesi di fenomeni molto complessi e poi c'è un tema anche sicuramente di stile di leadership e di comunicazione, oltre che naturalmente anche di scelte di tecnologie abilitanti. Voi parlate nella vostra ricerca di una migrazione dalla figura individuale del one man band che faceva il cambiamento al DDT, il Digital Dream Team, quello che insomma dovrebbe essere il motore della trasformazione. Come si arriva a questo cambiamento? È un lavoro molto complesso che è iniziato già qualche tempo fa, sia fisicamente sia virtualmente si stanno abbattendo molte barriere organizzative e funzionali, quindi oggi abbiamo a che fare sicuramente con un grande lavoro di orchestrazione che ha due anime, quella in qualche modo più legata alla singola funzione e quella diciamo di un'innovazione che viaggia in modo trasversale e attraverso la quale bisogna passare. Quindi il cosiddetto appunto Digital Dream Team è quello che in qualche modo risulta più vincente ed è quello che ha dato una grande mano soprattutto anche in questi ultimi mesi per superare le complessità. Bravo, allora mi hai come dire, rubato il tempo, Covid, pandemia ovviamente, cambia, spariglia le carte in tavola, accelera i processi, mette in crisi i sistemi organizzativi tradizionali, ma su che cosa si devono concentrare questi leader? Riporto pochissimi dati che sono quelli che a mio avviso sono più significativi. In questi mesi di emergenza abbiamo visto in Italia accelerare sicuramente, diciamo, quattro grandi fenomeni. Innanzitutto l'accelerazione del cambiamento dei modelli di lavoro, più flessibili e dinamici, imposti in parte dalla pandemia, sicuramente già attivi in precedenza. L'altro aspetto è uno sguardo più aperto verso gli ecosistemi, quindi nuovi attori, nuovi partner, nuovi modelli, e poi il ruolo comunque dell'automazione delle tecnologie. Direi due sostanziali temi: il tema dell'artificial intelligence, dei nuovi strumenti per avere più visibilità sui processi delle aziende, e l'automazione dei processi in generale, quindi sia dei nuovi processi che naturalmente nascono più digitali, sia la trasformazione dei precedenti, di quelli attuali, di quelli tradizionali. Grazie mille Fabio. Fabrizio Moneta, SAP Italia, un'azienda multinazionale che fa del digitale, come dire, uno dei suoi motori, dei suoi cavalli di battaglia. Cosa significa leadership digitale all'interno di SAP? All'interno di SAP leadership digitale significa coniugare un'esigenza di gestione, quindi di tutta quella parte di managerialità che serve in qualche modo a garantire che l'azienda continui a funzionare, con il cambiamento continuo che SAP e il mercato esterno stanno assolutamente subendo e in parte guidando. Quindi l'aspetto fondamentale di un digital leader non è tanto sull'execution quanto, secondo me, sulla capacità di visualizzare, di valutare bene lo scenario futuro, e questo si sposa anche molto bene con la capacità di analizzare i dati, perché un digital leader, senza avere degli elementi oggettivi per condividere le proprie visioni, per condividere le proprie proposte di cambiamento su elementi oggettivi e, come dire, numericamente solidi, non riesce ad essere efficace all'interno dell'azienda. Quindi la capacità di leggere i numeri, leggere i fenomeni, guidare l'innovazione di processo ma anche organizzativa, quindi portare delle proposte di cambiamento nel modo in cui l'azienda lavora sul mercato, e soprattutto trasferire questi messaggi e questa importanza all'organizzazione stessa. Quindi l'empowerment che il capo azienda, l'amministratore delegato, il proprietario, il titolare deve dare al digital leader per essere motore del cambiamento è un aspetto fondamentale, perché lui deve agire per nome e per conto della proprietà. Guarda, questo Fabrizio, sposo completamente al 100% quanto stai dicendo, e questo è uno dei grossi problemi che spesso nelle aziende si vede, cioè il condottiero lasciato lì da solo che non riesce a compiere la trasformazione perché ha dietro un'azienda che ostacola, quantomeno non agevola, questo cambiamento. Visto che voi siete una azienda multinazionale, dove stanno i digital leader? Al centro, in periferia? Al centro, in periferia? È una digital leadership più concettuale, quindi distribuita in termini di competenze? Come funziona un'azienda così grande come SAP? Allora, SAP è un'azienda fortemente è una multinazionale, verissimo, ma è fortemente radicata sul territorio, quindi il modello in realtà che si declina in Italia può essere diverso dal modello che viene declinato in Spagna, proprio perché le caratteristiche delle varie market unit, come le chiamiamo noi, i vari paesi, sono molto diverse, la maturità è molto diversa, ma anche la velocità di cogliere l'innovazione è molto diversa. In Italia tradizionalmente l'innovazione ha sempre avuto un processo lento, non è stato sicuramente, l'Italia non è un front runner. No, certamente no, ahimè no. Esatto, quindi anche il pace, il passo che l'azienda deve avere, deve essere sincrono con il mondo, con il paese all'interno del quale lavora, per cui la leadership in SAP è abbastanza decentrata, ci sono delle linee guida, chiaramente abbiamo dei processi standard all'interno dei quali dobbiamo attenerci, però a livello locale abbiamo una discreta autonomia su come proporre delle varianti anche significative sul modello corporate. Quindi c'è un discreto spazio all'interpretazione personale, lasciatemi dire, del modello. Fabrizio, potremmo dire quindi, come dicono un po' gli anglosassoni, Freedom Reading Framework? Direi di sì. Ok, grazie mille Fabrizio, torno da te tra poco, ma io adesso a questo punto vorrei sentire Andrea Belardinelli, l'altra faccia della medaglia, della medaglia, dal pubblico, dal privato al pubblico. Che ci azzecca, Andrea, il digitale e l'innovazione con il pubblico? Tutti noi, insomma, da clienti del pubblico lo vediamo sempre come un pachidermico gigante che è lento a muoversi, è lento ad affrontare le problematiche, è lento a rispondere al cliente. Raccontaci un pochino invece la tua posizione e il tuo ruolo in questo momento relativamente alla pandemia. Allora, senza dubbio il digitale ci ha dato una mano enorme proprio in questa esperienza, ma non tanto perché ci ha fatto fare balzi in avanti, perché la sanità, al di là delle diverse marce che può ingranare nelle varie realtà regionali è uno dei settori più tecnologici probabilmente, dove si sperimentano sempre di più nuove cure, nuove macchine, nuovi dispositivi. Quello che è il ruolo di un digital leader, secondo me, è quello proprio di governare questa complessità, perché capite bene che, io vi porto l'esempio della regione Toscana, noi dobbiamo tenere insieme 43 ospedali pubblici, altri 23 ospedali privati accreditati, per un totale di circa 65.000 operatori, di cui gran parte sono medici e infermieri. Mm-hmm. E quindi questa complessità insita nel sistema, ma anche lo stesso processo di cura, che oggigiorno non è più lasciato a come era qualche anno fa, alla singolo rapporto e relazione medico-paziente, sì, ma si inseriscono enormi momenti di acquisizione immagine, acquisizione DNA, quindi la tecnologia è ormai insita dentro la sanità, tant'è vero che io spesso chiedo alle persone, ho detto, perché chiamarla sanità digitale, cioè nel 2020 è pensabile avere una sanità che non è digitale, sì. Quindi in realtà abbiamo una grossa sfida da governare. Durante questo Covid questa sfida si è fatta molto più forte, ha bussato alle nostre porte di tutti, anche i miei colleghi delle altre regioni, e abbiamo cercato di non farci trovare impreparati. Mm-hmm. E il dato, paradossalmente quello che veniva già detto prima, è stato proprio la chiave di lettura, perché centralizzare e avere un governo di questi dati che abbiamo sempre avuto, perché l'altra cosa buffa è parecchi colleghi hanno scoperto è stata questa: noi non ci mancano i sistemi automatizzati di laboratorio, radiologia, posti letto, sale operatorie, quindi il dato c'è sempre stato e fa parte della gestione quotidiana. Quello che invece è cambiato come paradigma durante il Covid è stato proprio questo fruire in tempo reale del dato, dell'informazione mm-hmm. e trarne vantaggio per prendere le decisioni. Quindi questa è la vera chiave, insomma, del digital leader, secondo me, in questo periodo. Molto chiaro, grazie mille. Andrea Fabrizio, un esempio di digital leadership di successo in SAP, un progetto, come dire, che ha avuto un impatto all'interno di SAP che ci vuoi raccontare brevemente? Ma più che un progetto, il modo in cui abbiamo reagito a questo cambiamento radicale che mm-hmm. è stato appunto la pandemia. Insomma, noi siamo un'azienda fortemente basata sull'interazione tra le persone, sia internamente che esternamente. Non possiamo prescindere dal contatto, certo, con i nostri clienti, non possiamo prescindere anche dai lavori di team fisici all'interno dell'azienda mm-hmm. stessa. E questo venire a mancare di questo canale empatico di comunicazione diretta è stato abbastanza traumatico per un'azienda come la nostra. Mm-hmm. Trasferire tutta la comunicazione, tutta la collaborazione interna e, come dire, mantenere viva la socialità dell'azienda, la socialità con il cliente è stato molto complesso, molto complicato, e inizialmente è stato anche gestito in modo, anche se vogliamo, come dire, nessuno ci ha mai provato prima, mm-hmm. quindi è stata un'avventura per tutti. Dopo le prime esperienze in cui probabilmente abbiamo un po' saturato i canali, siamo riusciti a rimodulare il modo con cui i canali digitali venivano utilizzati. C'è stato un periodo in cui tutti facevano videoconferenze, poi abbiamo capito che probabilmente fare così tante videoconferenze saturava totalmente l'attenzione delle persone, quindi si raggiungeva l'opposto, cioè l'inefficienza abbastanza, non dico totale, però abbastanza alta, per cui il controllare il modo in cui venivano utilizzati questi strumenti è stato un elemento importante, secondo me, per minimizzare l'impatto della pandemia sul modo di lavorare all'interno. Ancora oggi non l'abbiamo completamente superato, perché comunque la mancanza di interazione con le persone per noi è importante, però siamo riusciti in qualche modo ad arginare il problema, credo. Grazie mille Fabrizio, voglio tornare un attimo in studio con Fabio Rizzotto. I digital leader però sono anche responsabili, le aziende sono sempre più responsabili, soprattutto in questo momento, anche nei confronti della società. Che cosa ci dice la ricerca in questo caso? Beh, la ricerca ci mostra anche un'attenzione particolare a un fenomeno che è quello della responsabilità delle aziende nella società in cambiamento, e uno di queste responsabilità ha a che fare anche col tema della sostenibilità. Mm-hmm. Naturalmente la sostenibilità è qualcosa di molto complesso, ha una componente comunicativa e d'immagine, ma una componente anche molto sostanziale. Quello che abbiamo rilevato è che oggi esiste un bacino di circa il quasi il 40% di aziende in Italia che è già in stato sostanzialmente intermedio avanzato di valorizzazione di questi principi all'interno dei propri modelli. Intendiamo fondamentalmente attenzione, servizi e processi che hanno un occhio di riguardo particolare dal disegno alla distribuzione ai temi sociali e ai temi ambientali. Fabrizio, quanti sono oggi i manager, i professionisti che in SAP riescono comodamente o quasi comodamente a lavorare da casa, pensando al people caring e quindi alla capacità di un'azienda di tenere uniti i team anche da remoto? Allora, tecnicamente ognuno di noi è in grado di lavorare da casa, non c'è un motivo ostativo, fisico, vero, reale, oggettivo per far sì che uno possa lavorare da casa. Si cerca di trovare una via di mezzo appunto per ripristinare quella di cui dicevi prima, questa socialità e questa capacità di interagire con le persone, quindi tendenzialmente abbiamo un modello un po' diluito, non rigido, per cui le persone comunque hanno la possibilità di rientrare in ufficio in determinati giorni della settimana, per motivi ovviamente che siano oggettivi e ragionevoli, e quindi cerchiamo un attimo di diluire il problema. L'altro aspetto è che abbiamo ripristinato la possibilità di andare ad incontrare i clienti, quello che ancora uno a uno inteso, non in gruppo, quello che ancora manca ed è un elemento purtroppo importante che temo non avremo ancora per lungo tempo, è la capacità di fare degli eventi relazionali in cui incontrare diverse persone contemporaneamente. Quelli, gli eventi che una volta venivano chiamati di marketing, però al di là del concetto di marketing era un evento importante di comunicazione tra le persone, e quella parte lì tuttora manca purtroppo. Andrea Bernardinelli, come avete intenzione di affrontarlo, se non lo avete ancora affrontato, o come lo volete affrontare? No, l'abbiamo affrontato fin dai primi istanti e banalmente, ad esempio, qui vi potrei portare un esempio della innovazione tecnologica che però è di bassissimo livello. Pensate ai nostri anziani, ai quali dicevamo appunto di non allontanarsi da casa, di non avere contatti, eccetera. Poi in realtà l'anziano cronico, che è una fetta molto importante delle nostra popolazione, e qui potrei riallanciarmi al concetto della sostenibilità, perché noi sappiamo prima del Covid che la grande sfida nazionale era quella del curare il cronico. Vi porto un esempio numerico: 1.500.000 persone in Toscana sulla popolazione di 3,6 milioni sono cronici. Sì. Quindi vuol dire proprio ripensare totalmente il nostro sistema, evitare che queste persone facciano ping pong, come si dice in tempo tecnico, tra le strutture, entrano, escono, eccetera, ma magari stiano a casa, aiutate da un contesto tecnologico e curate bene per stare a domicilio. Non per guarire, perché il cronico non guarisce, ma sicuramente per avere uno stile di vita e una qualità di vita perlomeno migliore rispetto alle fasi di acuto. E mi viene da dire anche per non intasare gli spazi ospedalieri, che in caso di emergenza hanno bisogno di spazi dedicati e di corsie emergenziali che siano pienamente efficienti. L'abbiamo proprio sperimentato col Covid, no? Ci siamo accorti che dopo un periodo di tagli prolungato le nostre risorse più preziose, le terapie intensive, se non gestite bene appunto vanno in sofferenza e soffrono di questo grande afflusso. Grazie mille, Andrea. L'esempio banale è ad esempio mandare un SMS con il numero di ricetta elettronica, quindi in questo caso addirittura dematerializzare totalmente quel foglio bianco o rosso che utilizziamo tutti i giorni, far arrivare un messaggio e quel numerino poter andare a una farmacia e ricevere il farmaco che è stato. E badate che alcuni cronici hanno 7 o 8 messaggi al giorno, perché prendono un numero di pillole o di pasticche molto importanti. E quindi tutte le farmacie sono integrate? Farmacie sono integrate, possono rileggere questo numero che si chiama il numero di ricetta elettronica e possono quindi erogare a quella persona il farmaco. Fabrizio, una curiosità, ma se io abito a Milano e ho bisogno di una ricetta al volo in Toscana o viceversa, sono toscano, mi trovo a Milano per lavoro, ho finito le mie medicine e ho bisogno di comprare il farmaco, come si fanno le integrazioni tra regioni? Allora, la ricetta elettronica fortunatamente è una delle piattaforme nazionali, è gestita proprio direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e quindi è... come dire, se si stacca un numero di ricetta elettronica vale su tutto il territorio nazionale. Ah, bene, bene. Non c'è più quel concetto di prima, del blocchetto cartaceo. Sì. questo aiuta tantissimo. Ovviamente. Ma anche dove questo non è possibile, visto la domanda era come si fa a integrare, sì, vi porto l'esempio, ad esempio, del buono della celiachia, che sì, ognuno di voi conosce qualcuno che ha delle intolleranze, sì, certo. Allora, fino a qualche l'anno scorso, noi avevamo dei talloncini di carta che venivano staccati, quindi ogni celiaco aveva diritto a, in base al suo profilo, a 90 o 100 euro al mese di prodotti, ma poteva andarli a spendere solo nei negozi vicino a casa. Dematerializzando questo oggetto, e noi l'abbiamo fatto insieme a altre regioni, quindi con la regione Lombardia, mm-hmm, Veneto, stiamo agganciando la Liguria, questo concetto si è completamente sciolto, quindi il cittadino toscano o il lombardo che viene al mare in Toscana può spendere comunque quel suo buono, bene, la sua regione, da noi, e non ha più l'incubo di portarsi, certo, il cestino con tutti i prodotti a casa. Grazie. Quindi mille, Andrea. È un esempio di abilitazione usando l'innovazione. Allora, i temi ovviamente qui sarebbero infiniti e noi dobbiamo necessariamente chiudere questa puntata, ma dandovi l'appuntamento alla settimana successiva, la settimana prossima, perché affronteremo i temi dell'innovazione, i temi della tecnologia che Andrea Bellardinelli adesso ci ha appena introdotto. Io vorrei ringraziare in studio Fabio Rizzotto, responsabile consulenze e ricerche IDC Italia. Fabio, ci vediamo settimana prossima per continuare. Con piacere, grazie a tutti. Fabrizio Moneta, responsabile vendite e soluzioni tecnologiche di SAP Italia. Grazie a voi. E Andrea Bellardinelli, direttore Sanità Digitale e Innovazione della Regione Toscana. Grazie mille, Andrea. Grazie a voi. E allora non mi rimane solo che salutarvi e darvi appuntamento alla seconda puntata per la settimana prossima qui su Radio Next. Come sempre, per qualsiasi curiosità, domanda o proposta, radionext@radio24.it. Noi ci vediamo in podcast il lunedì con la versione estesa, oppure la prossima settimana, 13.45, domenica. Un saluto da Pepe Moder. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.